9 gennaio 1944. Solo oggi mi è possibile dare mie notizie. Sto bene, sono qui come lavoratore. Scrivete spessissimo e dettagliatamente. Allo zio Eugenio, che spero bene, dite che qui nidificano le oche selvatiche. . 25 marzo 1944. Tenete annotato tutto quello che scrivete e ricevete, così vi saprete regolare. Sto bene. Vita molto dura, 12 ore al giorno di macerie. Per riportare a casa lo scheletro qui occorrono protezione di Dio, fisico robusto, cuore e sistema nervoso molto saldi. Poco freddo, ora neve, vento e acqua. Ho i calzoni con 17 pezzi. Non mi riconosco più. Cantano i feringuelli. Che nostalgia. Quanti sogni svaniti. Colombi. Tenere magari solo i vecchi. Non darli via assolutamente. Curare il bracco. Finora 148 tra mitragliamenti e bombardamenti. Pensate. Qui sotto firma Amici Cremaschi, diramate buone notizie. . 16 aprile 1944. Sto bene, mi occorre camicia, possibilmente militare, attendo vostre nuove. Io tiro avanti, faccio tutti i mestieri immaginabili, muratore, fabbro, falegname, becchino. Ho preso una lepre nel cimitero, ma purtroppo quasi sempre sono lo sgombero macerie. 10 ore di lavoro al giorno e hanno l'aria di aumentare. Penso sempre a voi, alle persone care, alla nostra bella casa illuminata di sole e di fiori, piena di sacri ricordi, con l'atroce dubbio giustificatissimo di non ritornare più. A tutt'oggi tra mitragliamenti e bombardamenti sono 180. Ho passato il giorno di Pasqua sotto l'acqua e il vento a scaricare carbone, ridotto come una bestia da soma. Non ho pianto, non sono capace. Mi chiudo in me stesso e guardo in faccia la crudele realtà del mio destino con indifferenza, con disprezzo della mia stessa esistenza, quasi. Spero solo nella protezione di Dio e dei miei cari. . 16 aprile 1944. Dopo gli scritti ricevuti fino al 6 corrente, non ho avuto più vostre notizie. Vi spero sempre bene, in buona salute e in condizioni normali sotto tutti i rapporti. Squisito il latte condensato e il miele. Immagino quale disturbo vi portano i pacchi. Pensate che per me, si può dire, è questione di esistenza. Voi mi capite. Col tabacco e sigarette posso avere tutto. Pane, fare giustare la roba, eccetera. Ecco perché insisto. È questione di appetito, non di vizio. 24 aprile 1944. La mia esistenza sempre in grande pericolo. Condizioni di vita, di vitto e di lavoro molto difficili. Sono preparato a tutto, anche al peggio. Anche se non mi abbandona la fievole speranza di ritornare anche a lunghissima scadenza. 1 maggio 1944. Far ingrassare a zio Eugenio oggetti mia passione. Uno mia libreria e l'altro ex salottino. Metterli al sicuro. Sto bene. Ho avuto un forte strappo muscolare schiena. Naturalmente non un'ora di riposo. Sempre macerie, putrelle di ferro, carbone. Ho fiducia per l'avvenire. Pregate per me. . 22 maggio 1944. Trasferito in altra zona. Tiro avanti. Sono sempre con voi col pensiero. Chissà se vi arriverà questa lettera. 5 giugno 1944. Niente notizie dall'Italia. Sto bene, nonostante la situazione sia peggiorata. Attualmente lavoro in fabbrica. Si avvicina l'inverno, inviate roba di lana. Sempre sigarette. Come sapete, vogliono dire tutto. Ho fatto la pelata completa, se mi vedeste, sono sicuro che, conciato come sono, non mi riconoscereste. Si spera sempre, con nel cuore l'incredibilmente atroce dubbio, di non fare più ritorno. Sono troppi i pericoli. 26 giugno 1944. Nelle vostre lettere dite che vi sembro un po' demoralizzato. Avete ragione. Ma se mi vedeste al ritorno dalla fabbrica, dopo un turno notturno di 12 ore, dove occupo il più disgraziato dei posti, quello di addetto alle caldaie, stanco, lacero, nero di carbone, con scarpe tenute col fil di ferro, nero come uno spazzacamino, affamato, non potreste fare meno di darmi ragione. Ma non voglio raccontarvi altro, anche voi avete di che pensare. Vi dico solo che non so chi mi dà la forza di resistere. Non è una mia debolezza questa di dire così. Sono abituato a guardare la realtà dura e cruda com'è. Attendo sempre i pacchi come la manna. Se non avessi avuto quelli a quest'ora, forse, se riuscirò a riportare il cuoio a casa, non mi spaventerà più niente. Qui è un continuo bombardamento. Recentemente ve n'è stato uno grandioso. E in seguito aumenteranno. Tenete bene il cane, fategli fare ancora il terra. Ho in mente ancora queste cose. È la passione. Colombi, se viene l'ordine, aboliteli tutti. Miei oggetti di passione, casomai lasciati a Cremona. Avvenire grave e pieno di incognite. Vi bacio tutti. È la prima volta che adopero questo verbo. Letto sul giornale che paesi della nostra provincia sono stati bombardati. Confido in bene. Penso che quando vi giungeranno queste lettere, se vi giungeranno, vi saranno da voi delle novità. Spero che la nostra zona sia fuori dalla direttrice di marcia. Qui le notizie dall'Italia sono confuse e contraddittorie. Ricevuta parecchia posta, commoventi le preghiere delle care nipotine. A volte mi prende persino uno spasimo dal desiderio di vederle, tutte e tre. Ci riuscirò ancora? Luglio 1944. Ringraziate tanto Don Piantelli delle sue buone parole. Ditegli che questo periodo non è solamente una preparazione alla vita, come dice lui, ma anche alla morte. Troppi pericoli. Sempre frequenti i bombardamenti. Da qualche giorno sono in infermeria, che si può chiamare piccolo giardino zoologico. 27 luglio 1944. Carissime mie nipotine belle, vi ricordo sempre con tanto affetto e chissà cosa pagherei per essere un colombo viaggiatore e correre d'un volo solo da voi per darvi un bel bacione sulla punta del vostro nasino. Anche qui vi sono molti bambini, tutti biondi, che a volte si avvicinano al filo spinato per far passare a noi internati qualche pezzettino di pane. Io sono un po' malatino, ho i piedi che non vogliono fare giudizio. E il mio cane fa giudizio? So che ha trovato 5 quaglie. Immagino le avrà rincorse fino a perder fiato. Tu, Maria Teresa, che sei la più grandina, digli così, se fa il cattivo, che se tornerò a casa io gli darò tante botte. Lo farò lavorare dalla mattina alla sera, gli darò da mangiare acqua e foglie di rape e se morirà lo brucerò con l'acido nitrico. 3 agosto 1944. Sono sempre a riposo per le gravi piaghe ai piedi che, È inutile nasconderlo, mi preoccupano moltissimo. Tutto andando bene, ne avrò ancora per più di un mese. Qui sempre freddo, come novembre da voi. Quando riceverete questa lettera, se la riceverete, sono 6 anni di vita militare e 1 di internamento. Io cerco di mantenermi forte, ma vi dico che tante volte mi pare di cedere. Nessuna parola di conforto da nessuno. C'è messa ogni venerdì, ma è un prete che invece di infondere coraggio continua a dirci di prepararsi al trapasso. 15 agosto 1944. Sono sempre fermo per le piaghe ai piedi, che migliorano ma lentissimamente. Sono stanco morto di questo male, in previsione anche di quello che può succedere. Si parla qui di un nostro nuovo prossimo trasferimento. Vedremo dove si andrà a finire, casomai. Oggi Ferragosto, primo giorno di caccia. Chissà se mi sarà concesso di riprendere un giorno il mio doppietto e fulminare ancora qualche quaglia e qualche lepre. A volte mi pare una vera e propria illusione, specialmente in certi momenti. Qui ci sono moltissimi fanelli, come da voi le passere, che fra poco inizieranno il passo per giungere da voi a metà ottobre. Ma forse a certe cose sarebbe inutile pensare. . 28 agosto 1944. Fra qualche giorno è un anno ormai che mi trovo qui in Germania. A volte mi sembra un mese, ma più spesso mi pare un'eternità. Forse qui, per un complesso di cose, si perde un po' il controllo dei propri sensi e anche del proprio cervello. Qui bisogna essere forti davvero. Spesso sembra che tutto sia perduto, che ormai non ci sia più niente da fare, ma poi l'istinto della vita riprende. Non vi so dire che cosa prova un animo sensibile in questa vita di avvilimento, di annientamento, di rinunce, fatiche e sacrifici di qualsiasi genere. Ma ora basta. Vi raccomando il mio cane e i miei colombi. Sapete cosa significano per me quelle mie bestiole. Il 23 corrente ho cambiato di nuovo il campo. È distante dalla zona precedente una 15 chilometri. È molto vasto e c'è gente di tutte le razze. Migliorato per via dei bombardamenti, per il resto siamo sempre lì. Ora lavoro qui nel campo, ma credo che fra poco dovrò riprendere la mia cara fabbrica. Come certamente avete sentito, dicono che noi italiani siamo passati lavoratori liberi. Non vi dico altro. 4 ottobre 1944. Le vostre buone notizie mi tranquillizzano un po'. Anche se il fatto del ponte sul serio mi fa pensare che anche voi passerete dei brutti momenti. Meno male che quelli degli uffici se ne sono andati. Ci sarebbe mancata anche questa. Io sto bene. Come lavoro ho avuto finalmente una grande fortuna. Ora sono impiegato come dattilografo qui al campo. È tutta una vita diversa. Ringrazierei il cielo se dovesse durare sempre così. Come sapete, siamo ora lavoratori liberi. Sensibile miglioramento nel mangiare, massima libertà, niente più guardie. 22 ottobre 1944. Sto bene. Le mie piaghe sono guarite completamente, tranne che una, per la quale ci vorrà ancora tempo. Incomincia a far freddo. Per fortuna ho quelle due maglie che mi avete mandato. Scrivete lettere comuni, lunghe e dettagliate, sempre naturalmente quello che è permesso. 2 novembre 1944. Qui è un bombardamento continuo. Da un'ora ne è terminato uno grandioso. È qualcosa di spaventoso. E in avvenire chissà cosa succederà. Tanto che io penso che ben difficilmente riuscirò a riportare a casa la pelle. Sarebbe veramente una gran fortuna o una vera grazia. Non dite che sono esagerato. Io guardo in faccia la realtà nuda e cruda. A essere ottimisti qui significa non saper ragionare. 28 novembre 1944. Non posso immaginare che cosa succeda da voi. Qui giungono le notizie più varie e di ogni genere. Tante volte penso che da voi tutto proceda normalmente, ma poi penso che questa guerra è qualcosa di spaventoso. È una cartolina un po' sconclusionata. La ragione è che proprio ora si profila un grande bombardamento. 9 dicembre 1944. Voglio parlare oggi di cose un po' diverse dal solito. Vi raccomando tanto il bracco. Non lasciatelo mai uscire dalla corte, specialmente ora che si va nei mesi di gennaio e febbraio. Casomai mettetelo in giardino con la cuccia sotto il portichetto. Parlando di queste cose, mi pare di avere quasi la sicurezza di tornare un giorno ancora a casa. Invece, quante probabilità vi sono, al contrario, di rimanere qui per sempre? 3 gennaio 1945. Voi direte che scrivo sempre le stesse cose, ma mi capirete. 5 gennaio 1945. A leggere un po' di notizie della nostra casa mi è sembrato per un quarto d'ora di dimenticare di essere qui. Avete fatto bene a riparare la casa, specialmente in quell'angolo verso la finestra dei colombi. Ne aveva bisogno estremo. 9 gennaio 1945. Come forse avete sentito, il 5 corrente, due spaventosi bombardamenti. Qui solo il Dio ci può salvare, come sempre dico nelle mie cartoline. Questa potrebbe benissimo essere l'ultima che scrivo. Bisogna essere pronti a tutto e non farsi delle illusioni. Per conto mio, come sapete, ho da tempo previsto tutto questo. 10 gennaio 1945, ore 22. È appena terminato un piccolo bombardamento. Anche questa volta è andata bene. Oggi ho scritto una lettera che tengo con me da recapitare a voi in caso di una disgrazia. Non si sa mai. Io spero che meni buono. 25 gennaio 1945. Da qualche giorno niente bombardamenti. Sembra un altro mondo. Speranze e delusioni. Delusioni e speranze. E si tira avanti. Febbraio 1945. Oggi, in mezzo a difficoltà che facilmente potete immaginare, ho fatto una potente pasta asciutta condita al burro. Poi ho fumato una buona Africa e mi è parso per un momento di trovarmi a casa nostra, di essere circondato da persone di famiglia e di aver dimenticato questi 17 mesi di ogni sorta di sofferenze. Subito un mitragliamento mi ha fatto ritornare alla dura realtà. 12 marzo 1945. Attendo sempre vostre notizie. Spero sempre bene di voi tutti. Chissà se avete sentito il mio messaggio radio. Io sto bene, sempre il solito. E le mie bestie? Se possibile, tenete dei colombi, solo i vecchi. Vi raccomando sempre il bracco. 19 marzo 1945. Come da me previsto, comincia a verificarsi la difficile situazione, sotto ogni punto di vista. Poche ore senza bombardamenti. Non so come si può passarla liscia. Le probabilità di ritornare ancora si fanno sempre più illusorie. Per conto mio mi sono già rassegnato a tutto. È tremendo, terribile dover fare questi ragionamenti. D'altronde pensarla diversamente vorrebbe dire essere incoscienti o deficienti. A voi tutti auguro e spero che le cose prendano una piega diversa dalle mie. Attendo sempre vostre notizie. Vi mando il mio addio e un abbraccio a tutti. Giovanni. . 16 giugno 1945. Solo oggi ci è data la possibilità di poter scrivere. Fortunatamente, anzi miracolosamente, sono sano e salvo. Come avrete sentito, Hannover è stata occupata il 10 aprile. Spero bene di tutti voi. Immagino le vostre gravi preoccupazioni all'avvicinarsi della burrasca. Ho piena fiducia che tutto sia andato per il meglio. Compagni cremaschi, tutti bene. si spera presto di ritornare, a meno che il destino, dopo così lungo e penoso periodo di sofferenze e pericoli, ci giochi un altro brutto tiro. 10 agosto 1945. Colgo l'occasione del rientro in patria di un mio compagno per consegnargli questa lettera con la speranza che arrivi a destinazione. Vi penso tutti bene, anche se fino a quando rivedrò tutti e tutto con i miei occhi non posso essere tranquillo. Vi potete immaginare facilmente quanto sia grande il mio desiderio di ritornare in Italia e di respirare un po' di aria di casa nostra dopo 2 anni di permanenza in questa terra maledetta. Tutti i compagni cremaschi indistintamente stanno bene e a nome loro assicurate le loro famiglie. Saluti a tutti. Arrivederci. Giovanni.